linee di moda, anche il, visto che il brano si intitola Salisbury Hill, la voce è quella di Peter Gabriel. Coldplay sono usciti con un singolo nuovo nuovo dal titolo Violet Hill, quindi vanno di moda, anche se questa canzone risale a un po' di tempo fa. Buongiorno a voi, siamo nella giornata del martedì 6 di maggio. La voce di Marco Gravelli a tenervi compagnia anche per quest'oggi. Iniziamo il nostro consueto spazio, quello mattutino, che ci vede impegnati insieme sino alle ore 12. Poi c'è quello serale dalle 20 alle 21 con lo spazio di Arden Daily. 5 minuti dopo le 9, buon lavoro e buon studio. Anche per quest'oggi non mancano gli appuntamenti con un paio di compleanni, poche notizie. È successo poco in questo 6 maggio nell'arco della storia della musica rock in genere. L'opportunità, come sempre, di mettersi in contatto con noi. Oggi vi regaleremo anche biglietti per concerti, ve li svelerò dopo, quindi serve naturalmente il nostro numero di SMS, ve lo rammento, 335-100-7777. Se volete scrivere la mail, marco@rockfamily.it. E allora iniziamo, diamo spazio ai Fleetwood Mac con la loro Hold Me. Fleetwood Mac, uno dei nostri primi motivi per questa giornata. Il primo Tris Das invece è pronto a partire, parte direi veramente alla grande con More Than a Feeling, questo must dei Boston. God Part 2 per U2, 18 Life Skid Row. heaven. But the truth is never the same without the lies he made up. Don't believe in excess, success is to give. Don't believe in riches, but you should see where I live. I believe in love. Don't believe in forces, don't believe in rage. But every time she passes by, wild folks escape. Don't believe in death row, skid row of gangs. Don't believe in the Uzi, just went off in my hand. I believe in love. Seen Alive per gli Skid Row con Sebastian Bach in chiusura di questo Trisdassi aperto dai Boston con More Than a Feeling. A proposito di questa canzone ci scrive Mike, patente 198 da Milano, che dice: quanto erano bravi Boston. Questo motivo lo provavo con la mia band, ma avete una vaga idea di quanto sia difficile, non tanto da suonare, quanto da rendere col giusto groove, è questo che fa grande una canzone. Grazie Mike, buona giornata a te, abbiamo ritrovato anche You Due con God Part 2 e poi in chiusura questa 18 in Life per gli Skid Row. Ora è tempo di Magic Bus, The Who. Every day, just to drive to my baby. Comes in 6 months each day, 'cause I drive my baby every day. Con le note di questa Magic Bus. Primo compleanno che vado a segnalarvi per questo giorno, il 6 di maggio del 1945, in quel di Detroit, Michigan, nasce Bob Seger, cantante, compositore americano. Il compleanno del giorno.